Benvenuti a tutti, puntata numero 12 di NBA Week, la trasmissione settimanale sulla stagione NBA 2016-2017 su Radio Big World. Dodicesima puntata e potrebbe anche essere l'ultima, ovviamente sto esasperando i toni e sono eccessivamente pessimista, però giusto avvisarvi che domani avrò un piccolo intervento per ridurre, anzi eliminare, la miopia e quindi probabilmente non sarò troppo visionatore degli eventi e dei destini della Lega durante questo fine settimana, tanto da poter poi ritradurli nella trasmissione della settimana prossima. Vediamo un po' come andrà, stiamo a vedere per l'appunto. Mi auguro ovviamente di poter registrare una trasmissione interessante la prossima settimana. Se non sarò riuscito a seguire fisicamente tutte o perlomeno le migliori partite della settimana a venire, saprete perché. Ovviamente ci sarà bisogno di alcuni giorni in cui i miei occhi si dovranno più o meno riposare dopo l'intervento, augurandosi sempre che l'intervento vada bene, perché appunto se l'intervento dovesse andare male probabilmente questa è l'ultima puntata, perché non potrei più vedere assolutamente niente. Sto ovviamente, ripeto, scherzando. Ci sentiremo la settimana prossima, vedremo come e vedremo come impostare la trasmissione. Intanto iniziamo con questa puntata e con la nostra settimana che inizia il 1° di febbraio. I Timberwolves cadono a Cleveland con la prestazione solita di LeBron James da 27 punti, 8 rimbalzi e 12 assist. Da segnalare 18 punti di Channing Frye partendo in quintetto e 20 di un Kyle Korver proveniente dalla panchina con 4 triple. Nel povero derby di New York hanno la meglio i Knicks invece, 95-90. Il migliore in campo è lo spagnolo Willy Hernan Gomez, con 16 punti e 16 rimbalzi. Da notare un pessimo 35% dal campo per i Knicks, e capirete quindi perché l'ho definito il povero derby di New York, visto la poca ispirazione dei Knicks e la tristezza totale dei Brooklyn Nets. Celtics vincenti invece sui Raptors con un'altra strepitosa prestazione da 44 punti di Isaiah Thomas, strepitosa prima parte di stagione la sua. Dall'altra parte invece da citare 32 punti di Kyle Lowry. I Sixers invece perdono contro i Mavs di un Seth Curry da 22 punti. Suo fratellone invece fa anche meglio, ovviamente, candidandosi subito per la prestazione della settimana. Nella vittoria per 126-111 contro Charlotte, risultato bugiardo perché la gara era chiusa di fatto già dopo il primo quarto, Stephen Curry segna 11 triple su 15 tentativi e chiude con 39 punti in 30 minuti. Primo quarto che si era concluso 41-21 per Golden State. Klay Thompson non è da meno con 6 su 10 da dietro l'arco, chiudendo con 29 punti. Più generalmente Golden State va con 21 su 48 da 3 di squadra, praticamente non giocando proprio l'ultimo periodo, che si chiude 28-18 per gli Hornets. Una cosa che a Golden State capita spesso, soprattutto quando hanno queste serate al tiro. Durant può quindi prendersi una pausa con gli Splash Brothers tanto ispirati. Prendersi una pausa significa chiudere comunque con 18 punti, 8 rimbalzi e 8 assist. Quando capitano serate al tiro del genere, Golden State è realmente vicina a sembrare una delle cose più potenzialmente imbattibili mai viste in un campo da basket. 2 febbraio, i Rockets perdono 108-113 contro gli Hawks di un Dwight Howard da 24 punti e 23 rimbalzi, ex di turno tra l'altro. Il barbone Harden invece ne mette 41. Tim Hardaway Jr. gioca un quarto periodo epico con 23 punti e 8 su 11 dal campo, chiudendo con 33 punti totali, il suo massimo in carriera fino ad oggi. Con la mancanza prolungata di Joel Embiid era prevedibile invece una flessione per i Sixers, quella che indubbiamente potrebbe costare anche il semplice miraggio, attivo fino a qualche giorno fa, di poter sperare in una posizione playoff. Perdono contro i soliti Spurs, malgrado un Ilyasova sempre più trascinatore con 25 punti e 10 rimbalzi. Dall'altra parte, al solito, gli Spurs zitti proseguono nella solita e quadrata stagione, senza apparentemente far notare troppo la mancanza dovuta alla perdita per ritiro del Tottenham Tim Duncan. 19 punti, 8 rimbalzi e 5 assist per Kawhi Leonard. Clippers sconfitti invece 120-133 dagli Warriors e in casa. 26 punti, 8 rimbalzi e 10 assist per Kevin Durant. 29 per Curry, 21 per Thompson. Dalla panchina ci sono anche 13 per Iguodala, 11 per Clark, 10 per McAdoo. In casa dei Clippers non bastano i 31 punti di un ultimamente rinvigorito Blake Griffin e i 21 dalla panchina del solito Jamal Crawford. 3 febbraio, Super James Harden nella vittoria di Houston dopo un supplementare sui Chicago Bulls di un Michael Carter Williams da 23 punti, 9 rimbalzi e 6 assist. Il barbone va un passo alla tripla doppia e chiude con 42 punti, 12 rimbalzi e 9 assist. Altra gara mostruosa invece di Isaiah Thomas nella vittoria di Boston sui Lakers, 38 punti per lui. Un giocatore che almeno statisticamente, a mio avviso, a tutti i livelli, considerando poi anche l'impatto sul gioco, meriterebbe la citazione nella ormai tanto citata corsa per l'MVP stagionale. Onestamente, un piccoletto con un impatto simile sul gioco e sulla stagione della propria squadra, l'ultima volta che l'ho visto si chiamava Allen Iverson. Paragone impegnativo se si guarda la carriera del leggendario giocatore anche dei Philadelphia 76ers, ma non troppo se si considera la singola stagione in corso di Isaiah Thomas, e non sono ovviamente l'unico a fare questo paragone. Altro giocatore di cui parlare è sicuramente Devin Booker dei Suns, che viaggia a medie stagionali ultra positive sopra i 20 punti di media. Ne segna 33 il 3 febbraio nella vittoria per 105-103 dei Suns contro i Sacramento Kings di un DeMarcus Cousins che chiude in tripla doppia, 22 punti, 12 rimbalzi e 12 assist. Storia a sé la prestazione di Russell Westbrook nella vittoria di OKC su Memphis. Tra i Grizzlies, solita e granitica prestazione del leader Marc Gasol con 31 punti e 8 assist. Dall'altra parte, in un finale in volata, Westbrook segna tutti e 15 gli ultimi punti dei Thunders che si portano a casa la partita, coincidente con la sua 25esima tripla doppia stagionale da 38 punti, 13 rimbalzi e 12 assist. Ci starebbe anche una prestazione della settimana, soprattutto osservando l'onnipotenza di Westbrook nel finale. Personalmente, pur avendo già ammesso che in ottica MVP Harden potrebbe al momento spuntarla per una serie di ragioni anche legate al rendimento della sua squadra, gli Houston Rockets, credo che Westbrook rappresenti uno dei giocatori più entusiasmanti attualmente in circolazione, in una delle stagioni in carriera più entusiasmanti probabilmente mai prodotte, almeno da un punto di vista statistico nella storia della Lega. Non è tanto il suo essere factotum a 360 gradi, quanto l'energia continua e l'atletismo che continuamente estremizza nei 48 minuti a disposizione ogni notte. Esagera ovviamente nelle scelte molto spesso, si prende libertà talvolta, esasperate anche dalla consapevolezza di sentirsi un uomo solo al comando, e quindi non appare sempre cosciente nelle valutazioni che fa. Ma è innegabile che vedere una partita come questa con un Westbrook ispirato è indubbiamente un'esperienza a sé per ogni osservatore di pallacanestro NBA degli ultimi decenni. Andiamo avanti, 4 febbraio. Gli Heat segnano 125 punti ai Philadelphia 76ers che si fermano a 102. Ilyasova sempre più leader di una squadra sempre più orfana di Joel Embiid, che sembra aver esaurito la vena positiva dell'ultimo mese. Ilyasova chiude con 21 punti. Dall'altra parte 30 punti e 20 rimbalzi con 3 stoppate per Hassan Whiteside. Secondo me scandaloso non vederlo nel roster dell'All-Star Game per la stagione che sta producendo e anche per la totale mancanza di centri effettivi convocati ad est. Chi invece all'All-Star Game ci sarà è il greco Giannis Antetokounmpo, che sfida Devin Booker e alla meglio per 137-112 contro ovviamente Phoenix Suns. Per Giannis ci sono 30 punti, 12 rimbalzi, 6 assist. Per il giocatore di Phoenix 31 punti. Tegola per i Minnesota Timberwolves, che intanto nella notte perdono contro Memphis malgrado il solito Karl Anthony Towns da 27 punti e 16 rimbalzi, ma devono registrare la stagione finita per uno dei giocatori più migliorati della stagione, nonché uno dei più mostruosi atleti in circolazione. Si tratta di Zach LaVine. Lesione del crociato anteriore, lo rivedremo, speriamo, ai blocchi di partenza della prossima stagione, un peccato perché stava viaggiando quasi a 19 punti di media. Bella sfida tra Golden State e Sacramento, con i Warriors che perdono la loro 8ª partita stagionale dopo un overtime per 109-106. 35 punti per Stephen Curry con 8 su 14 da 3, 4 su 11 sempre dietro l'arco anche per Klay Thompson che chiude con 26 punti. I Warriors hanno poco dalla panchina in termini di punti e poco da Kevin Durant che chiude con 2 su 10 dal campo. Solita prestazione granitica per Draymond Green con 3 triple, 16 punti, 8 rimbalzi, 6 assist, ma gli Warriors chiudono con poco sopra il 40% dal campo. Dall'altra parte il solito grande DeMarcus Cousins con 32 punti, 12 rimbalzi, 9 assist, anche lui diventato un giocatore a 360 gradi malgrado la stazza. 6 giocatori in doppia cifra per i Kings, 3 provenienti dalla panchina in cui spicca il 3 su 3 da 3 punti per Tolliver. A 20 secondi dalla fine dei regolamentari sul 98 pari, Curry sbaglia la tripla del KO, ma sbaglia anche dall'altra parte DeMarcus Cousins in fadeaway jumper, lasciando così 7 decimi di secondo agli Warriors, per i quali Klay Thompson non riesce ovviamente a trovare il canestro della soluzione. A 6 secondi dalla fine del supplementare, rimessa dal fondo in attacco per Golden State, per la verità eseguita talmente tanto bene che Curry si trova solo e sotto canestro per il comodo appoggio del più 1. Sbaglia però clamorosamente, regalando di fatto la vittoria a Sacramento, e dopo lo scontato fallo sistematico si porta sul più 3. La tripla del potenziale pareggio a 2 secondi alla fine è per Draymond Green, ma va lunga. Vittoria per Cousins e compagni. Vittoria serena e partita sempre sotto controllo anche per Cleveland al Madison Square Garden. LeBron segna 32 punti e diventa il più giovane giocatore della storia della Lega a superare i 28.000 punti in carriera. Pessimo Kristaps Porzingis con 9 punti. Rispetto all'inizio di stagione sta evidentemente subendo tantissimo il clima disastroso a New York, offrendo ultimamente prestazioni che fanno mettere in dubbio le parole positive relative alle sue potenzialità o quantomeno al suo miglioramento nella stagione in corso di inizio anno. 6 su 20 dal campo anche per Carmelo Anthony, ancora aspramente criticato, sempre più in cerca apparente di squadra. Domenica 5 febbraio, È la notte del Super Bowl in America, si giocano soltanto 3 partite e anche tutte piuttosto presto, quindi sono tutte e 3 visibili nel nostro orario italiano. Toronto affonda i Brooklyn Nets con tripla doppia di Lowry, dopo essere stati sotto nei primi 2 quarti. Oklahoma City ha invece la meglio sui Blazers con il solito Westbrook da 42 punti e un Oladipo di spalla da 24 punti. La partita più emozionante della notte è quella tra Clippers e Celtics al Boston Garden, o meglio, al nuovo Boston Garden. Non tanto per la sfida in sé, quanto perché si tratta dell'ultima partita in carriera a Boston di uno dei giocatori leggendari della franchigia, Paul Pierce, che oggi gioca con i Clippers. Isaiah Thomas parte piuttosto veloce, i Clippers sembrano non essere in partita praticamente mai, anche se, grazie a Jamal Crawford e a Blake Griffin, riescono sempre a mantenersi apparentemente a contatto. Pierce entra in campo in quintetto, bacia il centro del parquet del Garden, che stasera è tutto per lui, si commuove visibilmente durante l'ovazione che il pubblico gli tributa una volta uscito dal campo. Il pubblico del Garden quasi disinteressandosi del destino della partita, del resto i Clippers senza Chris Paul sono oggi poca roba purtroppo per loro, richiama in campo continuamente The Truth, in particolare nel quarto periodo. Il miracolo avviene negli ultimi secondi, quando la partita tecnicamente è già conclusa, con Pierce che prova e realizza l'ultimo suo canestro da 3 nella sua Boston, che è ovviamente in delirio. Sarebbe sufficiente ricordare che Paul Pierce è il secondo realizzatore di sempre della franchigia, nonché protagonista ed MVP della finale del 2008, il ritorno dei Celtics al titolo ai tempi dei Big Three, oltre a lui c'erano Garnett e Ray Allen. A prescindere dalla storia personale, dalle prestazioni e dai momenti indimenticabili che The Truth ha vissuto e ha fatto vivere in maglia Celtics, questo è ampiamente sufficiente per giustificare l'emozione del palazzo e del giocatore stesso nei pochi minuti di partita vissuti, un'emozione percepibile fortemente anche guardando il match alla televisione, esattamente come le ultime gare dei più grandi di sempre. Si respirava, almeno io respiravo, ovviamente da qua, quell'elettricità e quella voglia di tributo sincero che ricordo di aver percepito soltanto in altre 2 partite, guardando l'ultima di Michael Jordan, tra l'altro a Philadelphia, e l'ultimissima di Kobe a Los Angeles lo scorso anno contro gli Utah Jazz. Proseguiamo, 6 febbraio, Washington e Cleveland se la giocano ai supplementari, dove emerge la grandezza e la magnificenza di LeBron James in evidente stato di grazia. Per il re partita tremenda, 32 punti, 11 su 17 dal campo, di cui 6 su 8 da 3 punti. A tutto questo si aggiunge 7 rimbalzi, 17 assist, che sono un record di carriera. Non da meno Kevin Love, che segna 39 punti con 6 su 10 da 3 punti e 12 rimbalzi. Lo stesso numero di rimbalzi e cattura anche Tristan Thompson, ai quali aggiunge 22 punti. I Wizards in casa contro i campioni devono però crederci, visto la striscia di vittorie consecutiva aperta in casa e l'ottimo momento. John Wall ne mette 22 con 12 assist, Bradley Beal 41 con 6 triple. Tutto il quintetto chiude in doppia cifra, con anche 25 di 8 Porter Jr., che però nell'economia del risultato finale non bastano. Partita tra le più belle della stagione per i continui tentativi di fuga e ripresa, soprattutto a partire dagli ultimi 5 minuti dei regolamentari. LeBron si macchia di un erroraccio sotto canestro, viziato anche da una clamorosa infrazione di passi non fischiata che sembra regalare la gara ai Wizards. Da 3 secondi dalla fine segna però una tripla pazzesca che sancisce l'overtime. Un canestro incredibile, guardatelo negli highlights. Ultimi minuti di regolamentari mostruosi per James, che esce per 6 falli però in avvio di supplementari, e allora sale in cattedra un, fino a quel momento, sonnolento Kyrie Irving, che chiuderà la partita con 23 punti, solo però 8 su 24 dal campo, ma mettendo a segno i tiri che decidono la partita. Gara scacciavoci per Kevin Love, che è sempre più al centro di diatribe di mercato rispetto ad un eventuale scambio con Carmelo Anthony. Un terzo periodo suo da incorniciare, una serie di canestri importanti quando contava e soprattutto il merito di aver dato l'assist a LeBron direttamente dalla rimessa per l'incredibile canestro del pareggio a 3 secondi dalla fine. Intendiamoci, canestro, ripeto, pazzesco, ma apertura direttamente dalla rimessa di Love perfetta, chirurgica, millimetrica, geniale. I Lakers, contemporaneamente nella stessa notte, vanno al Madison Square Garden a fare la voce grossa, di fatto dominando i primi 3 quarti. Non c'è fine per l'imbarazzo dei Knicks, che perdono 121-107. I Lakers chiudono con 8 giocatori in doppia cifra, tra cui spiccano i 22 dalla panchina di Lou Williams. Notte fonda anche per i Clippers, 119-109 la sconfitta contro i Raptors di un DeMar DeRozan da 31 punti. Sconfitti anche 93-90 i Thunders in casa degli Indiana Pacers. Westbrook cicca la tripla doppia per un assist, chiudendo con 9, segna 27 punti, cattura la bellezza di 18 rimbalzi. Tra le altre partite, da non dimenticare i Jazz, che vincono anche ad Atlanta per 120-95 con 30 punti dell'All-Star Gordon Hayward. 7 febbraio, la notte appena trascorsa, tre sole partite nella notte, Harden senza problemi per la vittoria di Houston sui Magic con 25 punti, 6 rimbalzi e 13 assist, partita di routine, i Nets perdono contro gli Hornets e infine la bella sfida tra Blazers e Mavericks finita 114 a 113 per Portland, 29 punti per Damian Lillard e 32 punti per CJ McCollum, eroe assoluto del match con il canestro della vittoria allo scadere con poco meno di 4 secondi sul cronometro in traffico e da 2, super finale di partita per lui, andate a rivederlo negli highlights. Proseguiamo, si naviga velocissimi verso l'evento di metà stagione, l'All-Star Weekend di New Orleans. Dopo le dichiarazioni di quintetti e riserve della partita delle stelle della domenica, con le consuete polemiche relative principalmente agli esclusi e quest'anno il nuovo metodo di calcolo riguardante le votazioni dello Starting Five per il quale il pubblico non è più l'unico riferimento, sono usciti i programmi per gli eventi del venerdì e del sabato. Adesso è tutto pronto. Considerando che la partita della domenica è divenuta oramai da tempo un semplice showcase senza anima, almeno nelle ultime edizioni e almeno per il mio punto di vista, forse le competizioni del sabato rappresentano la parte potenzialmente più interessante. Anche quest'anno, almeno sulla carta, ci sono moltissimi spunti di interesse. Per la verità, tralasciando l'imbarazzante e inutile Celebrity Game del venerdì, il piatto forte del primo giorno è il cosiddetto Rising Stars, la sfida dei giovani, come potremmo provare a tradurre poco testualmente, o più testualmente si tratterebbe la sfida delle stelle nascenti. La struttura è la stessa degli ultimi anni, una sfida tra il Team USA e il team del resto del mondo. In campo per quest'ultimi ci saranno giocatori del calibro di Nikola Jokic, Joel Embiid, Kristaps Porzingis. Dall'altra parte, un potenziale escluso di spicco della partita vera della domenica come Karl Anthony Towns, D'Angelo Russell dei Lakers e Devin Booker dei Suns, quest'ultimo in formissima. Se la giocassero con un minimo di agonismo e serietà, potremmo trovarci di fronte ad un match potenzialmente godibile. Speriamo che la formula patriottica di sfida tra gli orgogliosi americani e i nascenti occupanti della Lega di domani, che potremmo chiamare, citando Matteo Salvini, gli extracomunitari, dia qualche input al riguardo. Il sabato invece sarà giornata di competizioni. Si parte con lo Skills Challenge, una sfida di abilità che ripropone il tema lunghi contro piccoli come centrale. Un termometro importante per misurare il livello di all-arounding raggiunto da giocatori che visivamente sarebbero ali grandi o centri attualmente nella Lega. Un momento in più per rendersi conto che i ruoli, come li conoscevamo un tempo, sono stati totalmente disintegrati nell'economia del campionato più bello del mondo. Partecipanti di tutto rispetto. Ci sarà Kristaps Porzingis dei Knicks, DeMarcus Cousins dei Kings, Anthony Davis dei Pelicans, Joel Embiid dei 76ers, Isaiah Thomas dei Celtic, Gordon Hayward dei Jazz, John Wall degli Wizards, Devin Booker dei Suns. Il campione uscente, Karl Anthony Towns, non sarà della sfida. Si prosegue con la gara del tiro da tre punti, uno dei grandi classici. Ci sarà il campione uscente Klay Thompson a difendere la sua corona contro alcuni dei tiratori più micidiali della stagione. Contro di lui ci saranno Kyrie Irving dei Cavaliers, già campione della gara nel 2013, Kyle Lowry dei Raptors, Kemba Walker degli Hornets, Eric Gordon dei Rockets, il mio favorito tra l'altro, secondo me il grande outsider di questa lista, Wesley Matthews dei Mavericks, CJ McCollum dei Portland Trail Blazers e Nick Young dei Lakers. Il piatto forte della notte, e forse di tutto il weekend, infine, sarà la consueta gara delle schiacciate. Lo scorso anno entusiasmante nella sfida testa a testa tra il bicampione Zach LaVine, che non si è presentato a difendere il titolo quest'anno e conseguentemente, dopo aver reso pubblico questa scelta, ha finito la stagione per infortunio, come già detto, e Aaron Gordon dei Magic, che lo scorso anno ha davvero stupito tutti. Gordon quest'anno ci sarà e lo farà da favoritissimo. Contro di lui c'è molta curiosità per la partecipazione di DeAndre Jordan dei Clippers, giocatore corteggiato a lungo per la competizione, che ha sempre dichiarato che se mai avesse partecipato lo avrebbe fatto solo se convocato per la partita vera, quella della domenica. Quest'anno è tra i 24 dello Star Game della domenica e coerentemente con se stesso proverà a stupire partendo dal presupposto che si tratta da anni del probabile miglior schiacciatore in partita della Lega. Esserlo però in una competizione come questa è ben altra cosa, staremo a vedere. Ci sono poi due outsiders, almeno a livello di notorietà. Glenn Robinson III dell'Indiana Pacers e il rookie di Phoenix Suns Derrick Jones Jr. Quest'ultimo non è stato neanche scelto nel draft ed al momento non ha praticamente mai giocato. Ad oggi neanche pare abbia mai schiacciato in partita. Si tratta veramente di un oggetto sconosciuto a tutti, ovviamente, anche se chi segue pochissimo in Italia la D-League dice che è un signor schiacciatore e che in D-League sta facendo piuttosto bene. Benissimo, abbiamo sforato tantissimo, quindi chiudiamo velocemente, ci sentiamo la settimana prossima, ovviamente ricordandovi tutti i giovedì in streaming alle 21.30 su Radio Big World questa puntata, o quantomeno questa trasmissione, il nostro blog medium.com/NBA Week, dove tutti i venerdì mattina troverete tutti i riferimenti per poter riascoltare la puntata, guardarla su YouTube nel canale di Belli 13 e trovare tutti i video e gli highlights principali delle partite che abbiamo descritto in questi 20 minuti superati al momento. Benissimo, vi saluto, ci sentiamo la prossima settimana, vediamo con che puntata di cosa parleremo. Una mezza idea ce l'avrei se non fossi in grado nei prossimi giorni di poter visionare le partite della settimana a venire. Bene, sarà una sorpresa la settimana prossima comunque. Grazie a tutti per l'ascolto, arrivederci da NBA Week. It's over. It's over.